4 mattino. 7:20 minuti, 14 secondi. Il titolo dei titoli dei giornali di oggi lo prendo dal Manifesto. Guerra per banche, non guerra per bande, ma per banche. Il quotidiano della sinistra radicale ha una foto con Veltroni, Renzi e Gentiloni, tre protagonisti del caso che agita i giornali di oggi insieme a tante altre cose. Ma allora andiamo con la sventagliata dei titoli. Le città chiudono per smog, l'Unione Europea salva i loro avvelenatori, il titolo del Fatto, ma il secondo titolo è ovviamente sulle banche. Il PD ricatta Visco in commissione e il Quirinale processa la Boschi. Il Sole 24 Ore, borse, Wall Street brucia i record, down a 23.157 punti. Poi un'altra notizia interessante che leggeremo su Industria.4. Visco, no di Gentiloni a Renzi, è il titolo di Repubblica. Il fondo di Scalfari è terribile, durissimo, la politica dal neurologo, che sarebbe quello che serve a Renzi, pensate. Italia Oggi, 874 miliardi di crediti ceduti per 4 miliardi. Equitalia si arrende e cede il suo debito. Il Secolo XIX, sul voto lo scudo anti-hacker, intervista al ministro dell'Interno, oggi al G7 della sicurezza a Ischia. La Stampa, uno scudo anti-hacker per il voto, vedi di nuovo questo tema e la stessa intervista a Minniti, perché i due giornali sono federati. Corriere della Sera, il dossier di Visco, oltre 4.000 pagine sul caso banche, sì, perché il governatore dopo la polemica ha consegnato le sue carte, il fondo di Polito, giochi pericolosi. Messaggero, muro su Visco, la nomina slitta, scontro frontale con Renzi su Banca Italia. Palazzo Chigi non deciderà prima del 27 ottobre, intende il nome del nuovo governatore. Il fondo di Cosenza però è sul tavolo fra Calenda e Roma. Visco, no di Gentiloni a Renzi, la Repubblica, lo abbiamo già letto e adesso andiamo al Giornale e a Libero. Allora, Libero, votate sì all'autonomia, apertura diversa sul referendum, come potete ben intuire, con due editoriali diversi. Finalmente Silvio segue la gente di Vittorio Feltri e si sgretola il muro dei centralisti, ma è sempre sul referendum, di Pietro Senaldi. I due direttori, carino, no? Finanza Rossa, Renzi sbancato, non sbiancato, è il titolo del Giornale, con il fondo di Alessandro Sallusti sullo stesso tema. Muro su Visco, la nomina slitta e il Messaggero. Corriere dello Sport, King Zeco, grande Zeco, zampata Juve. Ed è più o meno lo stesso titolo della Gazzetta dello Sport, pensate, Juve Super Mario, Roma Super Zeco. Anche La Verità ovviamente sulle vicende di Banca d'Italia, ma sull'apertura è su un tema diverso. Zitti zitti, hanno tassato le polizze vita, perché ritorna questo tema che avevamo preannunciato, veniva dal Sole questa notizia. Dal 1 gennaio, imposta per 2 per 1000, colpirà centinaia e migliaia di cittadini in 10 anni. Di 100.000 euro investiti, 2.000 vanno al fisco. Vedete che il Sole 24 Ore ha dato una notizia a tutti gli altri. Allora cominciamo subito con Scalfari, dai, da Repubblica, perché Scalfari si è quasi pentito, aveva scritto un fondo a favore di Renzi domenica e scrive che però è rimasto molto deluso da questa sua posizione sulle banche. Allora ecco l'attacco. In questi giorni mi è venuto in mente, scrive Scalfari, uno dei miei più cari amici, da tempo scomparso, Guido Carli, che fu uno dei più efficienti governatori della Banca d'Italia insieme a Ciampi qualche anno più tardi. La Banca d'Italia è per definizione indipendente e il suo governatore è una delle figure istituzionalmente del tutto autonome. In genere le sue iniziative vengono concordate con il Tesoro, ma possono anche divergere senza che questo comporti le dimissioni dell'uno o dell'altro. Un tempo il compito del governatore era stabilire la politica monetaria, stampare moneta, metterla in circolazione. Oggi il compito è molto più delicato, a cominciare dalle banche americane, da quella francese, da quella inglese, da quella tedesca, bisogna curare i rapporti della moneta italiana e vigilare sulle banche. Allora, vi dicevo che dentro, a pagina 33, gira questo pezzo, Scalfari fa questa chiusa molto forte. Questo mio articolo viene dopo un altro pubblicato ieri su Repubblica da Giannini e sempre sul nostro giornale, dopo le dichiarazioni del senatore del PD Mucchetti, presidente della Commissione parlamentare industria. Nel frattempo ci sono state dichiarazioni molto critiche su Renzi provenienti da Napolitano, Veltroni, Zanda, Calenda, nonché, come abbiamo già detto, la conferma della decisione di Visco che verrà presa da Mattarella. Questo mio intervento era quasi inutile, ma ho voluto far sentire la mia voce anche domenica, quando ho riferito della manifestazione del PD per i 10 anni della sua fondazione. Ebbene, sembrava che il PD si fosse finalmente rinnovato, scrive Scalfari, e il suo segretario avesse accettato la formazione di una squadra di prima qualità. Il sono e comando da solo, che finora era stata la pessima realtà del PD di Renzi, era superata. E invece no, Renzi è sempre lo stesso, per di più su un argomento che ha risvolti delicati per il leader di un partito che dovrebbe essere il perno politico dell'Italia e dell'Europa. C'è un sentimento isterico nel carattere di Renzi che talvolta lui domina, ma che più spesso ne è dominato. Sentite. Speriamo che riesca a guarire dall'isterismo, altrimenti, conclude Scalfari, durissimo, deve mettersi nelle mani di un neurologo che tenti di curarlo. Faccio voti affinché avvenga. Bene, se queste sono le parole di Scalfari, potete immaginarvi il tenore di quello che si discute su questo terremoto di Banca Italia e subito i fatti per poter avere le coordinate. Dunque, la Boschi sapeva. E l'editoriale di Manacorda che gira a pagina 3 di Repubblica, Gentiloni tradito da Maria Elena, tira dritto sulla riconferma del governatore di Banca d'Italia. La stessa sequenza di fatti viene raccontata sul Corriere della Sera da Francesco Verderami, con qualche dettaglio che sicuramente creerà dei problemi di interpretazione, sì, perché viene considerato che la Boschi sia in qualche modo in un parziale conflitto di interessi. Allora, è altrettanto vero, scrive Verderami, che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio sapeva anzitempo del testo, era l'unica che lo sapeva nel governo, l'unica del PD. C'è chi sostiene, dice Verderami, che avrebbe addirittura avallato la prima versione della mozione dove si chiedeva esplicitamente discontinuità a Banca Italia, cioè la giubilazione di Visco. Ma il punto non è questo, il problema è che, oltre a essere stato scavalcato dalla ministra per i rapporti col Parlamento, Finocchiaro, Gentiloni non è stato avvisato da nessuno. Questa è la ricostruzione di ieri e Claudia Fusani su Tiscali ha raccontato di essere stata testimone di una telefonata di litigio violento fra Gentiloni e Renzi, che era sul treno, pensate. Su Repubblica, Tremonti, a pagina 2, la propaganda Dem e suicida, bene ha fatto il Colle a fermarlo. La battuta di LK, caustica, Renzi nega lo scontro e fatto così lancia un boomerang e poi nasconde la mano. Altri, come dire, retroscena importanti, Folli e Ciriaco a pagina 4. Sì, perché Renzi si difende, almeno questa dote ce l'ha, non molla il punto, parla dal suo treno e dice, il pezzo di Tommaso Ciriaco, sulle banche non possono zittirci, il popolo delle primarie la pensa esattamente come me. E poi aggiunge, rincarando la dose, per anni abbiamo preso botte, ora saremo liberi di parlare? La vigilanza è stata inefficace e il governatore, racconta Ciriaco su Repubblica, pagina 4, ha portato le carte in commissione di inchiesta, questo significa che il problema c'è. Ci fermiamo solo un attimo e torniamo subito dopo, ricordatevi, siamo qui, pubblicità e meteo. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mannaggia. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister Eye. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Quattro mattino. Cimici, calpestate senza dignità! E bisogna chiudere questo racconto della guerra su Banca Italia ricordando precedenti importanti. Accadde a Carli di confliggere con il potere politico, accadde a un futuro presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e accadde, voglio ricordarlo drammaticamente, a Paolo Baffi, che fu persino colpito da un mandato di cattura perché un giudice, che poi si rivelò influenzato dalla P2, ritenne di doverlo mettere agli arresti. Questa è la storia d'Italia, e quindi l'ipotesi del passo indietro è ancora possibile, cioè che Visco possa scegliere autonomamente di tornare indietro. Racconta questa ipotesi Davide Colombo sul Sole 24 Ore e spiega: per il momento nessuno ha evocato esplicitamente l'ipotesi di un passo indietro di Ignazio Visco, che pure potrebbe costituire una via d'uscita all'impasse istituzionale e politico che si è creata. Ieri il governatore ha incontrato il presidente della commissione sulle crisi bancarie, Pier Ferdinando Casini, e i due vicepresidenti, Brunetta e Mauro Marino, per definire uno spirito di collaborazione istituzionale, ma anche, attenzione, per consegnare un primo elenco dei documenti che Banca Italia fornirà sull'inchiesta. Quindi è anche guerra di carte. E l'articolo di Colombo, che sta sul Sole a pagina 2, fa anche un totonomi, chiamiamolo così: Salvatore Rossi, Fabio Panetta con foto, Ignazio Angeloni e persino Piercarlo Padoan potrebbero prendere la via della poltrona più importante dell'economia italiana se dovessero arrivare queste dimissioni. Ma allora voltiamo pagina scusate, un'ultima cosa molto importante: l'intervista di Richetti a pagina 5 sul Corriere, perché il luogotenente di Renzi dice: sceglierà l'esecutivo liberamente, ma noi vogliamo rispetto. Noi abbiamo voluto esprimere una posizione politica in una sede, il Parlamento, dove è giusto farlo. Veniamo da una stagione di grandi sofferenze, e però è necessario ricostruire un rapporto di fiducia. Abbiamo eliminato la parola discontinuità dalla mozione, non volevamo contenziosi, ma il governo vuole nominare Visco? Proceda, anche a prescindere da quello che diciamo noi. La scelta dell'esecutivo sarà quella del PD. Quindi vedete che c'è bastone e carota, la guerra non è finita. Siete nella cacca fino alle orecchie. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. Industria 4.0, il Sole, pagina 3, boom dell'indotto, investimenti e assunzioni, si allarga la filiera di fornitura, l'effetto della manovra e di questa operazione. Il fondo di Orioli, solo dagli investimenti può nascere occupazione. L'IVA precompilata per combattere gli evasori. E un'altra delle novità che sono nella manovra, sul Sole, pagina 5, Marco Mobili e Marco Rogari spiegano le misure del governo, e ovviamente c'è ancora il vaglio tecnico e politico, però dovrebbero essere queste, e questa misura, come spiega La Stampa, ha una valenza molto importante. Pagina 9. Partite IVA stretta sugli evasori con la dichiarazione precompilata. Con la legge bilancio 2018, spiega Paolo Baroni, arriva un nuovo pacchetto di misure anti-evasione, fra cui un'ulteriore esemplificazione nel campo dell'IVA. Anche per questo, in assoluto, la più evasa dagli italiani, arriva la dichiarazione basata sui dati delle fatturazioni elettroniche. Con nuovo anno, a vantaggio di tutte le partite IVA, commercianti, artigiani, professionisti, imprenditori, l'Agenzia delle Entrate predisporrà una bozza di dichiarazione IVA. Questo per evitare che ci siano dribbling e altre cose che sapete. C'è una notizia che secondo me riguarda e interessa molto le persone normali, perché il TAR, e siamo ancora sulla Stampa, pagina 9, boccia la richiesta di Airbnb e dice: bisogna pagare le tasse anche sugli affitti brevi. La scadenza del 16 ottobre scorso per versare la trattenute dell'IVA non verranno quindi spostate. Stando alla legge, infatti, al sostituto di imposta che non aprirà e che non opera la ritenuta a cui è soggettato, viene applicata una sanzione pari al 20% dell'importo più gli interessi. Quanto alle multe, conclude Barone sulla Stampa, se ne parlerà solo l'anno 21, quando le entrate potranno incrociare i dati e i versamenti su quelli dei contratti stipulati. È una notizia grossa, perché sono tanti gli italiani che hanno la casetta e affittano. E giriamo ancora pagina, prima della mitragliata, vi voglio raccontare cose importanti della cronaca. Allora, su Repubblica, la bocciatura annullata perché il papà non era stato informato. E poi Asia Argento, la Boldrini parla, ma pensate, sul Corriere della Sera, cioè interviene la Presidente della Camera. Ricordate cosa aveva detto Asia Argento a Carta Bianca? Io sono fiera di aver parlato, perché questo che si sta alzando in questo momento, questo putiferio e tutte le donne che stanno denunciando in maniera anonima o meno, questo è un momento molto importante per il nostro paese, per noi come donne. Che finalmente ma non è solo nello spettacolo, come si può vedere dal web, è in tutti gli ambienti di lavoro che questo accade. Ebbene, in difesa di Asia Argento, incoraggiandola a restare, scende in campo Laura Boldrini, la presidente della Camera, ripeto, vi dà l'idea di come si è allargata questa polemica, e dice: Asia, l'Italia è con te. Cose che mi interessano sul Corriere, pagina 17, la storia di Casimirri, il super latetante e le Brigate Rosse. Ho appena pubblicato un libro sugli anni di piombo in cui racconto la storia incredibile di quest'uomo che apre un ristorante a Managua, si chiama Magica Roma, pensate che vergogna. Ebbene, un grande scoop di Bianconi sul Corriere della Sera, che trova un documento negli archivi in cui risulta che Casimirri era stato già arrestato, schedato e poi è riuscito a volare via. Perché? Questa è una delle grandi domande che riguardano i mestieri e i misteri italiani. Sulla Boldrini due pareri, cioè su Asia Argento, pro e contro, Cruciani contro la Santanchè sulla prima pagina di Libero. Poi una cosa per chi ama i personaggi particolari: Allevi ha composto, il papà dell'inno della Serie A, ha composto un nuovo disco e dice lui: cieco al buio senza neanche scrivere una riga. Bello. Ma andiamo alla mitragliata. Sul Giorno, pagina 11, era un famoso comico di Zelig, adesso dorme in auto. La conseguenza drammatica di una separazione ci pone il tema dei papà e di quel mantenimento che viene spesso fissato dai giudici, malgrado la sentenza Grillo, al vecchio tenore di vita. E spesso dei padri, per mantenere il tenore di vita, finiscono in panchina. Il Fatto, nazi gay e violentato, pensate, sono quelle cose curiose. Repubblica, pagina 9, un murale nordcoreano, in stile nordcoreano, che doveva riguardare il governatore del Molise, un grandissimo murale, pensate, di centinaia, 100 metri quadri, ovviamente spero, sul tema dell'accoglienza, governatore della Basilicata Pittella. Dopo le polemiche è stato firmato, possiamo dire, per fortuna. Il Corriere, pagina 22, la classifica dei punti della patente. Pensate, uno dice: ma saranno i napoletani quelli che guidano e vengono puniti? No, qui l'Italia si mischia. La regione con la più alta penalizzazione è il Friuli Venezia Giulia. Ma che combinate lì in Friuli? Anelli rubati nel telemarketing sul Secolo, a pagina 19, una signora ha riconosciuto un suo anello nel telemarketing di una televisione e le intercettazioni della polizia: toglili un carato così non si riconosce. Mamma mia! La verità, pagina 23, e per noi è una miniera di perle questa rubrica, perché ce n'è due meravigliose. Il parroco che fa la predica e dice: coloro che faranno la donazione alla parrocchia andranno in paradiso. Beh, stupendo. Anche se donate per Radio 24 andate in paradiso, o almeno se rimanete fermi all'ascolto. C'è polemica perché Rocco Siffredi sul giornale pagina 20 è stato messo in una giuria per scegliere Miss Strega, o voglio dire, non è che era Miss Santità, è insorta metà della popolazione, però la Proloco è contenta, dice: tutta pubblicità, è successo a Corinaldo, tenetevi pronti per la festa della strega. E infine una cosa molto curiosa su Repubblica: il Mossad ha deciso il nuovo identikit degli agenti segreti. Per farne parte bisogna avere eleganza, ma soprattutto senso dell'ironia. Beh ragazzi, arruolate Parenzo. Ci vediamo fra poco. Ciao papà, sei obbligato. Mattino. E allora, ho anticipato la mitragliata oggi per tenervi da parte alcune storie che voglio leggere per bene. Intanto vi informo della polemica, lo dicevo leggendo i titoli, di Berlusconi contro Sorrentino. Silvio Perfinta contro Sorrentino. Filippo Ceccarelli su Repubblica, pagina 7, dice: l'ex premier parla di un'aggressione politica, ma scrive Ceccarelli, la sua storia e la sua vanità insegnano che non ha nulla da temere. E conclude così il grande fogliettonista di Repubblica, dice: ma uscirebbe proprio in campagna elettorale questo film, e pazienza, non è che il Camano di Nanni Moretti, uscito nel 2006, impedì la rimonta e sostanziale pareggio di Berlusconi il mese dopo. Con il dovuto margine di incertezza, scrive Ciccarelli, è il bello del cinema. L'oro potrebbe rivelarsi, è il titolo del film, il monumento che mancava al Cavaliere. Sempre con Falonieri, l'anno scorso è stato trattato da Bauscia, da Ganascia, da Ribaldo, da ignorante, da paria infrequentabile, ma guardatevi intorno, guardate l'Italia, la sua cultura, i suoi tic, il suo costume. Lui ha lasciato il marchio in questo paese. Filippo Ceccarelli su Repubblica, un godibilissimo fogliettone. Però io voglio andare a pagina 19, l'ho tenuta un po' come una pepita finale, sull'intervista pazzesca di Scarpellini. Ma ve lo ricordate questo signore? Beh, allora ve lo voglio ricordare io. È quello che aveva regalato i soldi al signor Marra, all'epoca era in giunta con Alemanno, si è dovuto difendere e fa questa intervista dicendo: per me è un onore dare case gratis ai politici, io aiuto tutta Roma, ma certo è un benefattore. Gli occhi vispi, Giuseppe Scarpa, pagina 19 di Repubblica, sprizzano intelligenza, ogni tanto attraversati da un velo di inquietudine. Sergio Scarpellini, 80 anni, è preoccupato, dopo l'intervista dovrà sottoporsi a una delicata operazione. L'immobiliarista romano ha un patrimonio che sfiora il miliardo, salute. Quinta elementare, nato nel quartiere popolare di Testaccio, è imputato per corruzione. Avrebbe dato una mazzetta a Raffaele Marra, ex braccio destro della sindaca Virginia Raggi, quando lavorava nella giunta Alemanno. Lui spiega di essere un generoso che è stato frainteso dalla giustizia, ma poverino, accetta di rispondere alle domande alla presenza dei suoi avvocati. Perché nel 2013 intestò due assegni da 367.000 euro alla moglie di Raffaele Marra? Ma lui è un amico di mio figlio. Ho pensato, voglio fargli fare a mio figlio una bella figura. Sia chiaro, io aiuto tutta Roma. E certo, fai un assegnino a 367.000 euro. C'è stata una contropartita? Nessuna. Per Marra quei soldi erano un prestito, me li ha restituiti. Un prestito restituito, ricorda giustamente Scarpa che lo intervista, a 4 anni di distanza e guarda caso a pochi giorni dalla sentenza fissata per domani. Non è un tempismo anomalo? Ma per me è normale, se mi fossero serviti prima glieli avrei chiesti. 370.000 euro in due tranche, va bene. In un interrogatorio lei ha detto ai PM che ha aiutato Marra perché stava in quella posizione, con un usciere non l'avrei fatto. I miei due precedenti avvocati, quando rispondevo ai PM, mi hanno suggerito di dare quel tipo di risposta. Lei sperava che Marra potesse favorirla? Io non parlavo mai con Marra, lui non mi serviva. Però Marra chiamava spesso la sua segretaria. La malafede è un dramma, la verità è troppo importante. Ma pensate, dopodiché c'è un'altra notizia correlata che fa bollire il sangue un po' alla stessa maniera. Indagato Monsignor Micciche, il suo attico pagato con i soldi per i bambini malati. Nuove accuse al vescovo degli scandali. Lui all'attacco, la mafia ecclesiastica è peggio di quella vera, cioè sarebbe il Vaticano a combatterlo. Alessandra Ziniti, Repubblica, pagina 19. I soldi destinati a bambini autistici e ai piccoli malati oncologici sono finiti in un attico di 210 metri quadri con dependance nel centro di Roma. 800.000 euro sottratti a un ente morale, la Fondazione Campanile, una delle più importanti realtà socio-assistenziali della Sicilia, utilizzata ai fini privati dall'ormai ex vescovo di Trapani, Monsignor Francesco Micciche, sollevato nel suo incarico all'esplodere dello scandalo per un ammanco milionario dai conti della diocesi. 5 anni dopo, l'inchiesta è ancora aperta a Trapani, vede l'alto prelato indagato per la protezione indebita e malversazione. Con questo attico, al quarto piano di un antico palazzo immobiliare in via San Nicola di Tolentino, alle spalle di Palazzo Barberini. La descrizione ve la lascio, la sua risposta è questa: ho scoperto la pericolosità di una mafia ecclesiastica non meno potente, insidiosa e nefasta delle mafie che il sistema giudiziario è impegnato a contrastare. Siamo veramente, vabbè, all'assurdo, però meno male che ogni tanto su queste cose si indaga. Allora, ricordiamoci che arriva la pagina dei cani e dei gatti, abbiamo tanti temi oggi, potete chiamare sulle banche, potete chiamare su Asia Argento dopo questo pronunciamento della presidenza della Camera, potete chiamare su quello che volete, ricordate i numeri 349-238-6666 per intervenire e poi ovviamente il numero per chiamare 800 24 00 24 e i messaggi per la segreteria telefonica, non dimenticate mai 02 30 22 44 92. Ci sentiamo tra poco. A Radio 24 c'è Luca Telese, una volta al mese. No, tutti i giorni di primo mattino c'è anche Oscar Giannino.